Radio 24 Reportage. Design e tecnologia avanzata. La nautica italiana prende il largo. Di Andrea Ferro. Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare lì da te, da te. Sto accelerando adesso, ormai ti prendo, mare, mare. Dalle secche della crisi al mare aperto con l'orizzonte che regala squarci sempre più luminosi, la nautica italiana ha ripreso il largo, il presente smacchia il passato e c'è il futuro che impone nuovi ritmi e scalda le opportunità saldamente legate allo sviluppo tecnologico, condizione imprescindibile per tenere il passo e allungarlo. Nel 2016 il fatturato del settore è cresciuto del 18,6%, meglio ancora rispetto all'anno prima. Nel 2015 infatti l'incremento si era assestato a quota più 17,1%. Per il 2017 i segnali sono altrettanto promettenti. Insomma, un buon vento regolare soffia su un settore che rappresenta in assoluto una delle espressioni più prestigiose del Made in Italy, sintesi di stile, innovazione, design e funzionalità. Luci che a settembre si sono riflesse sul Salone Nautico di Genova, grande vetrina internazionale allestita per la 57esima volta da Ucina, la Confindustria Nautica. Più barche in mostra, più espositori, più visitatori, ma non è solo una questione di numeri. Attorno alla nautica è cambiata l'atmosfera. Si sono allontanate le nubi del pregiudizio che relegavano il settore ad una questione riservata ad un'elite, oscurando una realtà fatta di imprenditorialità, passioni, posti di lavoro, tradizioni coniugate nel segno di un rapporto con il mare che non vuol dire solo maxi yacht. Partiamo dalla riscossa dopo la tempesta della crisi che qui ha picchiato con la forza di uno tsunami. Misuriamola attraverso le parole di Marco Fortis, vicepresidente della Fondazione Edison, che ha curato Nautica in cifre, il rapporto annuale del quadro economico dell'industria italiana della nautica da diporto. Da una parte il mercato estero ha continuato a premiare la qualità del prodotto italiano che, come noto, a livello di yacht a motore entrobordo ha la leadership a livello mondiale. Nello stesso tempo il miglioramento del clima economico e anche lo scenario di prospettiva tutto sommato sempre piuttosto favorevole per l'economia ha indotto anche il mercato interno ad avere più fiducia e a fare acquisti nel settore. C'è stato anche un atteggiamento diverso da parte della politica però. Rispetto ad una fase in cui quasi si era criminalizzato il concetto di partecipazione al settore della nautica, dai porticcioli alla proprietà della barca eccetera, siamo entrati in una fase in cui si è capito che si stava penalizzando assurdamente un settore che crea occupazione e valore aggiunto per il paese. Se lei dovesse suggerire agli operatori del settore un consiglio, una dritta come si dice in gergo. E gli operatori del settore in questi anni hanno capito che per poter avere successo in un mercato più difficile di quanto non fosse stato negli anni d'oro pre-crisi del 2007-2008, bisogna investire sempre di più in ricerca, in innovazione e soprattutto nella valorizzazione di prodotti di grandissima qualità in cui l'Italia è maestra. Qualità e innovazioni, quindi come volano per un processo di sviluppo ineludibile, ci torneremo con qualche testimonianza diretta, ma prima ancora un focus su un altro misuratore importante dello stato di salute del settore. Parliamo del leasing nautico. Nel 2016 i contratti sono aumentati del 25%. Enrico Duranti, presidente di Assilea, ci aiuta a capire come si manifesta questa tendenza e pone l'accento sulle frodi sempre in agguato perché mancano strumenti efficaci per combatterle. Declinato in questo ambiente vuol dire sia sostenere l'acquisto delle imbarcazioni a diporto, ma anche sostenere la componente commerciale del nostro comparto, che vuol dire sostenere le aziende che poi offrono servizi di noleggio. Prospettiva? Ma la prospettiva mi sembra buona, anche i cantieri italiani mi sembra che siano pieni di ordini in questo momento. Certo, per noi come leasing ci sarebbe un boom se avessimo l'archivio telematico, il famoso archivio telematico che è il baluardo fondamentale contro le frodi. Nel passato il leasing nautico ha subito questa problematica in maniera importante, le società di leasing stanno adesso molto attente rispetto a questo un archivio informatico come quello che c'è sulle auto sostanzialmente toglierebbe alla radice questo problema. C'è un settore della nautica nel quale la sperimentazione è una condizione naturale, rientra nella sfida, potremmo dire è tra le regole d'ingaggio di chi va per mare, in questo caso spinto dal vento, un'energia potente e fascinosa che spariglia ogni convenzione. Barche a vela, insomma. Vanni Galvani di Swan Yacht idealmente ci fa mollare gli ormeggi per portarci incontro al futuro che in parte è già presente. La vela è sempre stata pionieristica su tutto, noi siamo addirittura pionieristici anche rispetto all'automotive per quanto riguarda i materiali e le tecnologie. Per noi il peso è fondamentale, soprattutto nella vela sportiva, però diciamo che sono due o forse meglio tre gli ambiti in cui si lavora di più. Una è l'aerodinamica e idrodinamica, in cui negli ultimi anni c'è stata un'accelerazione notevolissima. Un'altra sono i materiali e l'altra sono le energie a bordo. L'idrodinamica e aerodinamica si è sviluppata moltissimo anche in seguito alle Ocean Race recenti che hanno portato degli apporti notevoli. Molti di questi sviluppi sono dovuti anche a quanto siamo avanzati sui materiali, soprattutto il carbonio e altre fibre di questo tipo, che però non è solo il carbonio, anche il modo di lavorarlo, le resine, gli espansi, come viene fatto il composito, hanno dato la possibilità di sviluppare delle cose fino a poco tempo fa impensabili come i famosi foil. I foil sono della specie di ali, l'abbiamo visto in Coppa America, che fanno sì che queste barche possano volare. Allo stesso tempo anche i materiali delle vele si stanno evolvendo. L'obiettivo, come ci spiega Galvani, è rendere la barca sempre più autosufficiente e quindi sostenibile nel rispetto del mare e della terra, che ci sia vento o che ci sia bonaccia. Si tenta di andare sempre di più verso l'elettrico, come tutto il mondo intorno. Il problema dell'elettrico, ci tengo a dirlo, è legato molto allo sviluppo delle batterie. In questo noi non siamo attori protagonisti, ma viviamo dell'esperienza e delle capacità dell'automotive. La nuova fabbrica della Tesla dedicata alle batterie ci dà grandi speranze. Idrogeneratori, generatori eolici, pannelli eolici, un sistema integrato di queste cose fa sì che la barca sia completamente autosufficiente e molto molto molto verde, molto ecologica. La sostenibilità è il tema centrale del presente, tanto più lo sarà nel futuro. Guarda, io dico sempre che il velista è ecologico per necessità, non per fede, perché anche per esempio la gestione dei rifiuti per noi è vitale, e se in casa può essere un tema secondario, anche se adesso con la differenziata è diventato attuale, però anche noi la compattazione. Io mi ricordo quando feci l'Atlantico, eravamo 7 persone a bordo, facemmo in tutto 3 sacche dell'immondizia, gestendo al minimo tutta l'immondizia, compattando il più possibile e comprando il più possibile involucri che fossero biodegradabili. Questo fa sì che è una scuola di vita dove impari a gestire queste cose e poi le trasferisci anche a casa, nella vita civile, nella vita normale. Il mare porta consigli, agita la voglia di fare, forgia un carattere che si nutre di un'inquietudine creativa da trasferire sulla terra. Batterie, materiali, idee, il futuro, come si diceva, in fondo è già presente. I ritmi dello sviluppo tecnologico ormai alterano la percezione del tempo, quello che sembrava lontano in realtà è vicinissimo o si è già materializzato. In questa tensione costante i ragazzi del Più Lab del Politecnico di Milano testimoniano una rotta. In occasione del Salone Nautico hanno messo in moto Anthropos, il primo braccio robotico a 6 assi in grado di stampare in 3D materiali compositi caricati a fibra continua con matrice termoindurente. Detta in parole povere, presto potremo realizzare imbarcazioni in vetro resina con una stampante in 3D. Ce lo conferma un giovane ricercatore, si chiama Gabriele Natale. Assolutamente sì, potrebbe farlo, basta scalare la macchina a controllo numerico, che in questo momento quella che abbiamo noi in dotazione è la più piccola della serie, riesce a stampare un metro per un metro per un metro. In realtà esistono macchine a controllo numerico che arrivano anche fino a 50-60 metri lineari, e quindi a quel punto, una volta sviluppato il processo e implementato su una macchina dalle grandi dimensioni, si riuscirà anche a produrre grandi oggetti come appunto le barche. Quindi le barche saranno ancora più belle, le barche made in Italy saranno ancora più belle. Sicuramente la stampa 3D sotto questo punto di vista è un processo che può liberare tra virgolette il progettista, il designer, l'architetto da quelli che sono gli standard dettati da una tecnologia consolidata, quindi stiamo parlando di sottosquadri piuttosto che angoli di sformo. Con la stampa 3D tutto questo non è più vero, e tu puoi passare dal modello tridimensionale all'oggetto finale